fossi sotto casa a chiamarmi, a gridarmi, a dirmi che guarda amore sono ritornata, non ce la faccio più a stare senza di te. Finalmente mi dici che sono pochi quelli bravi come me. Mio papà me l'aveva detto, lasciala perdere, portatela a letto. Ma tu ora solamente sei la mia ragazza sbagliata, la mia